volumi di idee nel nostro mondo sotterraneo. Estraggo la radice per l'essenza, senza se ti senti estraneo. Visionario, portatore di rime dal cuore dove regna i costi. Un raggio di speranza in cone morte. Un sol di vista che non posso più ignorare. Vengo giù dal sottosuolo per restarci, non prendo il volo. Siamo un esercito, le truppe sotto tuo controllo. Pronti per questo prodotto, marchio di underground di suono. E mentre voi svolgete indagini, ciò carichi chili d'inchiostro su svariati pezzi registrati marci. Non ho bisogno di tecnologia enterprise. Una bico, un micro, scarni in cuffia, dubbo sound di mais. Cambiano giunte tra promesse, vale sostenuto. Il resto solo polvere montato da frasi computer. Non si discute, siamo pieni fin solo la cute. In lotta con le nostre forze, anche le nostre venite.